regola quel vicolo. Ragazzi che ridono per niente Jack Nicholson. Danziamo col diavolo, chiaro. Ciò per cui penso è un fatto per cui piangono, quel fatto per cui ci ridono. Suona come fossi con Shakespeare o con il fatto che posso aver davanti l'altro mondo, vedere il senso della vita, la Miss Radcliffe con Poe, che si è persa la testa poi trovi sempre di più, come un amore a caso, bang bang Nancy Bono. Casi in cui chi sta al buio anche chi ne vede di più, come Notre Dame per Quasimodo. Mentre tu cerchi belle forme, chiaro sei una tipa. Io faccio quadri come Schomberg, come Calofrida, che poca luce fa guardare con più intensità. Dice smetti di correre, impari a camminare. Mentre cercavo immensità, cosa cercava questa non si sa. Guardate in ogni frammento c'è il tutto, come nel Piccolo Principe d'ora ogni cosa è da ammirare. Questa piuma riflette su ciò che è grave, tele da lignane, un demone che fa ballare le tribù africane. Quindi la meta in viaggio, Mulholland Drive, la luce è già tra le tue mani, Coraline. Finché non la vedi tra le botte come i Cobra Kai, come Acap con il capo d'olio. Che non vedere ancora è passione, ma qua ad essere paziente c'è solo un avvoltoio. E sono come Asher sulle scalinate, come mio frate quando sale sulle palizzate, come quando manifestati scrive per ciò che manifesta, quasi muore ma è festa, come sulle gradinate di un qualsiasi stadio capitiate. Quindi cerco la semplicità, ma se mi chiedi come va, dico io la felicità. Se siamo due cose separate, il bello che ci rende due cose legate, come gli stili di Notre Dame. E io cerco la semplicità, ma se mi chiedi come va, dico io la felicità. Se siamo due cose separate, il bello che ci rende due cose legate, come gli stili di Notre Dame, come gli stili di Notre Dame.